In cammino, capitolo trentesimo di Mirice. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Sergio Baldelli a Roma, marzo 2008. Mirice di Giovanni Pascoli. Capitolo trentesimo. In cammino. Siede sopra una pietra del cammino a notte fonda nel nebbioso piano e tra la nebbia sente il pellegrino le foglie secche stridere pian piano. Il cielo geme, immobile, lontano, e l'uomo pensa: non sorgerò più. Pensa, un'occhiata quale passeggero, vana, agettata a passeggero in via, è la sua vita, e impresse nel pensiero l'orma che lascia il sogno che s'oblia. Un'orma lieve, che non sa se sia spento dolore o gioia che non fu, ed ecco, quasi sopra la sua tomba siede, tra l'invisibile caduta, passa uno squillo tremulo di tromba che tra la nebbia nel passar saluta. Squillo che viene d'oltre l'ombra muta, d'oltre la nebbia, di più su, dove serene brillano le stelle sul mar di nebbia, sul fumoso mare in cui t'allunghi in pallide fiammelle, tu, lento carro, e tu, stella polare, passano squilli come di fanfare, passa un nero triangolo di gru. Tra le serene costellazioni vanno, e la nebbia delle lande strane, vanno incessanti a tiepidi valloni, a verdi oasi, ad isole lontane, a dilagate cerule fiumane, vanno al misterioso Timbuktu. Sono passate, ma la testa alzava dalla sua pietra intento il pellegrino a quella voce, e tra la nebbia cava riprese il suo bordone e il suo destino. Tranquillamente seguitò il cammino dietro lo squillo che vania laggiù. Fine del capitolo trentesimo.